compagni di viaggio. Compagni di viaggio. A Bali con Andrea Bocconi. Il seguire un percorso dall'inizio alla fine dà una speciale soddisfazione sia nella vita che nella letteratura. Parola di Italo Calvino. E noi che ci occupiamo sia di vita che di letteratura ci riconosciamo appieno in questa affermazione. La soddisfazione di seguire gli scrittori nel loro peregrinare, guardando al viaggio come struttura narrativa, è ciò che ci dà ogni volta lo stimolo per ripartire. Oggi con me c'è Andrea Bocconi, viaggiatore, scrittore e docente della Scuola del Viaggio, che, come recita lo statuto, è un'associazione che ha per scopo lo sviluppo, la divulgazione e la pratica di una cultura del viaggio più ricca, consapevole e creativa. E promuove inoltre tutte le forme di turismo sostenibile e responsabile. Bali è un'isola dell'Indonesia, con una superficie di 5.561 km² e una popolazione di poco più di 3 milioni di abitanti. Fa parte dell'arcipelago delle isole della Sonda Minori ed è separata dall'isola di Giava dallo stretto di Bali. Amministrativamente è una provincia dell'Indonesia, con capoluogo Denpasar, ed è l'unica a maggioranza induista. L'indonesiano e il balinese sono le lingue parlate universalmente dalla popolazione, insieme all'inglese, che è la prima lingua straniera conosciuta. Oltre a queste lingue, esistono anche numerosi dialetti indigeni. Ma la scelta di Bali va in due tappe. Io sono andato a Bali la prima volta molti anni fa, nel 78, era ancora un periodo in cui mi pare che l'aeroporto internazionale fosse stato aperto da poco o addirittura non fosse stato aperto, quindi non c'era ancora quell'enorme turismo di massa che fa di Bali l'isola più frequentata al mondo da turisti. E ne ero rimasto colpito, ma poi non c'ero più tornato. Una decina di anni dopo, con la mia compagna di allora, facevamo il giro del mondo. Ci eravamo presi un anno di aspettativa e in questi biglietti di giro del mondo c'è la possibilità, diciamo, di scegliere moltissime destinazioni, purché si continui ad andare sempre nella stessa direzione. Io insistevo per tornare a Bali e questa compagna diceva: ma Bali è un posto turistico, ma perché andarci? E io dicevo: guarda che però è un posto che ha una cultura talmente forte che non viene scosso nella profondità, viene scosso in superficie. E poi dico: in tutti questi posti generalmente basta spostarsi di 5 chilometri per trovare le famose la vera Bali. Il vero viaggiatore sa che la geografia custodisce la storia solo per chi la sa osservare e che anche il turismo più becero fatica a profanare la ricchezza di un luogo. E poi c'avevo una cartuccia da giocarmi in più. Avevo concordato con la professoressa con cui avevo fatto la tesi in psicologia a suo tempo di proporre una ricerca interculturale, di cui in realtà non è che mi importasse molto, ma mi sembrava un'ottima porta d'ingresso per conoscere qualcuno che faceva il mio mestiere, che mi avrebbe fatto entrare da porte diverse quantomeno. E questa è stata un'idea assolutamente vincente. La ricerca non è mai venuto fuori nulla di sensato, qualcosa, ma nulla di particolarmente interessante. Però mi sono presentato all'università con questa letterina che portavo indietro da molti chilometri e ho conosciuto una psichiatra balinese che si chiama Suriani, che era una delle figure più interessanti dell'isola, perché era un insegnante di meditazione, era una guaritrice in realtà, che aveva scelto di fare la psichiatra. Lei mi disse una volta: perché i guaritori non vengono pagati, cioè hanno solo un'offerta, io ho 6 figli e ho bisogno di lavorare. E abbiamo fatto una grande amicizia, per cui quella è diventata un po' la mia famiglia balinese. E il marito apparteneva alla famiglia dei re di Klung Kung, che era uno dei Bali era divisa in piccoli reami. e quello di Klung Kung era quello più nobile, diciamo. Quindi questo mi ha fatto entrare nelle cerimonie religiose da tutt'altra porta da quella del turista. Siamo a casa di una guaritrice, sposata con un discendente di una famiglia di re, e ci stiamo per far introdurre nella Bali vera, quella che solitamente sfugge al turista classico. Andrea sembra conoscere ogni modo per farlo. Poi un'altra idea vincente è stato il fatto che, siccome avevo deciso di... avevamo questo tempo larghissimo, quindi avevamo detto, ma fermiamoci un mese, e ho detto... Vabbè, all'università ci vado due volte alla settimana, che faccio negli altri giorni? Io sono abbastanza negato come abilità manuale, dissi voglio fare qualcosa con le mani e sono andato a cercarmi un maestro di scultura, perché disegnare non sapevo proprio, ho detto proviamo con la scultura e sono andato da un mascheraio. Ora le maschere a Bali sono sacre. Cioè, le maschere sono l'oggetto tipico che si porta via il turista, dipinta con i colori acrilici e fatta, non dico in serie perché non è in serie, sono comunque artigiani, però niente di speciale. Ma le maschere sono anche oggetti magici nella cultura balinese. E quindi io sono andato da questo mascheraio che mi ha messo alla prova. Mi ha dato un pezzo di legno durissimo, il legno, mi pare di ibiscus, dell'ibiscus, era un legno terribile, e mi ha messo lì a scortecciarlo per 3 o 4 giorni. Io l'ho presa un po' come una sfida e ho continuato ad andarci. Intanto vedevo come funzionava questa attività artigiana all'interno del kampung della famiglia, che è un insieme di case familiari, e a un certo punto ho visto che mi hanno invitato a mangiare con loro e ho detto allora mi hanno promosso di grado, evidentemente, anche perché ero molto fiero, perché ero l'unico dei 3 o 4 occidentali che cercavano di imparare e che stava lì, e ho continuato praticamente per tutto il mese, poi ci siamo trattenuti un altro mese. Conoscere il vero volto di un paese passando attraverso le sue maschere. Che privilegio! Quindi sono entrato nella vita di una famiglia sostanzialmente, per quanto lo si possa fare in realtà nella cultura balinese, in cui anche se ci si sta 25 anni si resta sempre tamu, un ospite. Quindi a me piaceva questa condizione di una sorta di intimità e distanza al tempo stesso. Intanto capivo molte cose appunto sul concetto di amicizia, come viene vissuto, sul concetto del tempo. Se io andavo via era un sorriso, se tornavo 6 mesi dopo era un sorriso, era come se non fossi andato via, però neanche mi interessava nulla a nessuno di quel che avevo fatto prima e nel frattempo. Tutto ciò che è profondo ama la maschera, secondo Nietzsche. E oggi a Bali, con Andrea Bocconi, lo stiamo sperimentando. Per entrare in sintonia con la vera Bali, infatti, ci siamo fatti portare da un mascheraio. Levigare il legno di ibiscus è stato il primo gradino verso l'arte della maschera. Maschera che da queste parti è magica, sacra, ed è uno degli accessi alla cultura profonda di questa gente e di quest'isola. Un'altra cosa che mi piaceva molto è che sono stato lì la prima volta, appunto 2 mesi, e mi hanno chiesto subito sei sposato? Io per semplicità ho detto di sì, e hanno detto hai figli? No. Perché? Ecco, una domanda che noi considereremo un tantino delicata, lì invece è una domanda da fare subito. Al contempo nessuno mi ha mai chiesto che facessi per vivere, era una cosa che non gli interessava affatto. il mio lavoro là. È venuto fuori solo in seguito, perché vedevano che poi andavo, che venivano a prendermi questi amici balinesi, e allora si informavano. Non sono le risposte che diamo a far capire chi siamo, ma le domande che facciamo. Quante domande intelligenti avete fatto oggi, per esempio? La quotidianità può diventare affascinante. E lì quindi io ho vissuto una Bali della quotidianità, non dell'eccezionalità, dell'arrivare, della spiaggia, dei begli oggetti. Io ho vissuto una Bali che implicava che mi dicevano: allora domani notte c'è la cerimonia nel tempio tal dei tali, questa cerimonia della mia famiglia, vieni. E quindi arrivavo e c'eravamo solo noi, non c'era il solito flusso dell'autobus, quindi mi sentivo assolutamente snob rispetto a tutti gli altri turisti. E questa cosa è andata avanti per molti anni, cioè io ho sprecato da quel viaggio lì, ho vissuto per molti anni 6 mesi in Italia, 2 mesi a Bali, che era il limite del visto che dà il governo indonesiano. 6 mesi in Italia, 2 mesi a Bali. Per cui un giorno ho fatto il calcolo che nel totale ho vissuto quasi 3 anni della vita in quell'isola, nel corso di 10-12 anni che ci sono andato. Ora è un po' di tempo che non ci vado più, siccome è esaurito il percorso. Chiedo ad Andrea di raccontarmi qualche cerimonia. Sono curiosa e il racconto che segue non fa che aumentare la mia curiosità. Le cerimonie vanno dalla limatura dei denti, che è uno dei passaggi iniziatici. Dunque, secondo i balinesi, i canini appuntiti sono tipici dei demoni. Infatti nelle loro maschere il cattivo c'ha i canini appuntiti. Peraltro io ho i canini appuntiti, quindi mi sento sempre un po' a rischio. Se hai i canini appuntiti, sei a rischio a Bali, come ci ha raccontato Andrea. Ma a parte la limatura dei denti, quale altre cerimonie hai visto? Ma poteva essere la limatura dei denti, come poteva essere, per esempio, una cerimonia di buon auspicio per la partenza di un figlio che andava a studiare all'estero e quindi chiedere la protezione degli dèi. Oppure poteva essere... mi viene in mente la prima volta che poi sono ritornato a Bali molti anni dopo con mia moglie. Appena arrivati siamo stati portati alla benedizione di una Mercedes, perché un mio amico, un antropologo viennese, aveva comprato una vecchia Mercedes che necessitava di benedizione. E quindi era venuto il prete, il pedanda, e l'aveva benedetta con una piccola cerimonia. C'è un giorno dell'anno in cui tutti i mezzi di trasporto vengono benedetti a Bali. Oppure, se sempre per restare in ambito di automobilistico e di circolazione, se c'è un incidente e c'è del sangue sparso, immediatamente viene circoscritta la zona dove c'è il sangue, vengono fatte delle preghiere per evitare che i demoni si impossessino attraverso il sangue dello spirito della persona ferita o morta. Quindi il calendario balinese avrà 180 feste l'anno, è un po' complicato. Quali consigli daresti in qualità di grande conoscitore di Bali a chi invece ancora non c'è stato? Ma secondo me, io sono un fautore del viaggio lento e della rinuncia all'accumulo di destinazioni. Bali è un'isola, mi pare che sia 80 km nord-sud, 150 est-ovest, quindi non è grande, oltretutto parecchie zone sono aride, non si vanno a vedere. Quindi è bene non voler vedere troppe cose, è bene stare in un posto. Direi che, a meno che proprio uno non abbia la gran voglia del, del mare. Il mare di Bali non è straordinario, escluse alcune piccole località, ma dove vanno gli australiani, Kuta, Legian, sono posti da sono le Rimini locali, non c'hanno quasi più niente di Bali. Mettersi in un posto un po' più isolato e possibilmente cercare di imparare qualche cosa, perché anche in una settimana si può, che so io, chiedere a un danzatore di insegnarti i rudimenti di una danza semplice, mettiamo, o chiedere a uno dei milioni di pittori che ci sono di farti fare qualche cosa. Allora in quel modo si entra in un ritmo in cui in realtà si fa tanto, perché poi diventa naturale svegliarsi all'alba, vedere il vulcano che compare solo all'alba e poi di nuovo entra nella nebbia, e arrivare fino in fondo alla giornata avendo tenuto un ritmo molto organico, molto sano, camminando, stando, seguendo i percorsi nelle risaie, evitando quei percorsi del traffico che è terribile, rischiosissimo. Io ancora non so come ho fatto a cavarmela col motorino nelle vie balinesi. Più di una volta ho pensato, ecco, morto a Bali, insomma, è abbastanza esotico per uno che ha scritto di viaggio. Quando ho incontrato Andrea Bocconi per farmi accompagnare a Bali, stabilito che ci saremmo visti e non solo sentiti per telefono, il suo commento è stato: bene, così potrò indossare una delle mie maschere balinesi. Mi ha fatto sorridere. Ancora non sapevo quanto importante fossero le maschere per conoscere davvero Bali. Ma dunque, le maschere sono caratteri, no? Rappresentano caratteri e rappresentano quindi aspetti, per esempio, dell'eterna lotta fra il bene e il male. Per cui Rangda è una maschera terrifica, quindi con grandi zannoni, ed è questa divinità femminile malvagia che, per esempio, istiga il danzatore a piantarsi il Kris addosso. Però c'è il Barong, che è il buono della storia, che viene un po' dalla tradizione cinese, simile al dragone cinese, e nella lotta il Barong protegge il danzatore facendo sì che il coltello si pieghi, che il Kris si pieghi. Ora devo dire che io, che sono molto scettico per costituzione, laico e scettico, quando ho visto il primo Kris piegato contro la pancia e poi buttato via, sono subito andato a toccarlo e mi sono tagliato subito, perché in realtà era affilatissimo. Quindi ci sono queste danze di trance, per esempio, che usano le maschere. Chi non avrebbe verificato come ha fatto Andrea? Lo scetticismo in fondo fa parte dell'istinto di sopravvivenza. Io ricordo che uno dei miei maestri, Pak Alit, Idawagus Alit, danzatore e mascheraio fine, mi faceva vedere una maschera che stava restaurando per un tempio, perché le maschere sacre stanno nei tempi. Era vicino il compleanno del tempio e doveva essere restaurata, con i colori naturali, eccetera. E me la fa vedere con grande cura, io faccio per mettermela, e lui disse: no, no, no, poi ti viene un gran mal di testa, potresti anche stare male se ti metti questa maschera qui. Quindi parlava, per esempio, di maschere piene e maschere vuote. Poi ci sono maschere che si ricollegano al Ramayana, questo enorme poema epico che si racconta dall'India fino a non so dove in Oriente. Per esempio Tualen è il cantastorie, quindi veniva. Poi c'è il buffone, che è quello che nella rappresentazione dice battute salaci, grossolane, e c'ha proprio l'aria del contadino. Nelle rappresentazioni è quello che si fa dire le cose del villaggio e poi spara le battute per prendere in giro qualcuno. Maschere e ancora maschere. Quindi rappresentano un po' sia la cosmogonia sia la vita sulla terra, anche perché i balinesi non fanno nessuna differenza fra un sopra e un sotto, è tutto mescolato. Io dico che una cosa che fa capire un po' la cultura, lei avrà presente quei dipinti balinesi pieni di figurine, ecco, una cosa interessante è che non c'è una differenza fra figura e sfondo, E come mai? Non è che è una questione di non conoscenza della prospettiva o cose del genere. È una questione che non esiste uno sfondo, perché tutto è pieno di visibile e di invisibile. Quindi loro usano questa espressione: se cala ni scala, ciò che si vede e ciò che non si vede. E poi considerano che il mondo è in un continuo equilibrio in una lotta magica fra il bene e il male, quindi continuamente c'è questa presenza del magico, e le maschere sono oggetti che vengono fatti anche per creare potere proprio, quindi vengono fatti con certi tipi delle maschere, non quelle commerciali, vengono fatti scegliendo un certo albero, facendo una cerimonia per ringraziare l'albero del legno che dà, e poi fatta nel plenilunio e così via. È una storia complicata. Dopo la magia delle maschere, è tempo di farci attraversare da quella dei sensi. Diamo il via alla sinestesia. Ma partiamo dai profumi proprio. Per esempio il frangipane. Il frangipane è fortissimo, è un profumo fortissimo, ed è un albero che per i musulmani, mi pare loro lo chiamino Cambogia, è un albero dei cimiteri, ma che viene usato in tutte le offerte, dà un profumo acutissimo. Poi c'è un fiore che non ricordo il nome, diciamo, nostro, ma si chiama Senang Malam, felice di notte, perché sprigiona il profumo nella notte. Poi e qua si passa proprio alla sinestesia, dal profumo anche al cibo, c'è questo continuo odore di carne bruciata, di pollo arrosto. Il pollo è la carne di Bali. A me piacciono moltissimo, fra i suoni, quello dei carrettini. I balinesi non danno grande importanza al cibo se non per banchetti rituali, per cui per esempio all'ora di pranzo girano dei carrettini con dei campanelli, e a seconda del campanello uno sa se sta passando la zuppa di riso oppure se arriva la carne, e questo mi pare bellissimo, e sono un po' tipo quelle gondole con cui si portava il gelato, ora qualcuno lo fa di nuovo, si portava il gelato per esempio sulle mura a Lucca, gira una gondola con il gelato e col campanello, mi ha fatto molto effetto sentirlo. Profumi, sapori e suoni nella Bali di Andrea. Ora è la volta del tatto e della vista. Poi il tatto, ecco, mi viene in mente proprio il legno, perché per esempio una maschera richiede dei infiniti passaggi per renderla totalmente liscia. Allora è molto bello sentire diversi legni e lavorare con la carta, come si chiama, carta abrasiva, grossa, poi più fine, poi la zero, finché proprio il dito ci passa e non si sente niente, proprio come una pelle di bambino. Quanto alla vista, un mio amico fotografo dice che Bali, dice, un po' come l'India e il Messico: metti una macchina fotografica in terra, gli tiri un calcio, una foto bella te la fa. Perché siamo nei tropici, e poi c'è questo gusto bello, veramente raffinato, delle stoffe, i sarong, le camicie delle donne, queste camicie trasparenti delle donne. C'è una grande definizione, un grande senso del bello. Ci siamo lasciati con Andrea Bocconi e il suo esercizio di sinestesia balinese. Li abbiamo fatti passare tutti i cinque sensi. Quando lui mi chiede se non manchi nessuno, io scherzando dico, mancherebbe il sesto. Il sesto è molto importante perché, racconto un episodio, una sera vado con mia moglie a una cerimonia in un tempio, pioveva, vedo un posto un pochino riparato dove non c'è nessuno, ci sediamo lì. Eravamo stati invitati da amici balinesi, da un pittore. Dopodiché mi piglia un po' il sospetto perché tutti sono seduti altrove e nessuno ha scelto quel posto riparato e si avvicina molto delicatamente con quella gentilezza, che quel garbo che hanno i balinesi, il mio amico, e dice: ma venite qui che vedete meglio la cerimonia. Dopodiché, visto che eravamo in confidenza, mi sono potuto permettere una domanda che non si fa. Le domande dirette sono veramente rozze, sono proprio da uomo occidentale. E ho chiesto: ma eravamo seduti nel posto sbagliato? Ho detto: ma lì devono arrivare gli spiriti degli antenati. Più sbagliato di così, però, aggiunge Andrea, lo hanno fatto con garbo. Bali è un po' più nostra ora, grazie ad Andrea. Passiamo ai libri da mettere in valigia. Pare che Bali sia una meta perfetta per conciliare la lettura. Ah, dunque, per i libri che porto in viaggio, Bali è il posto perfetto, perché ci sono questi piccoli bookshop dove funziona il sistema del libro usato e dello scambio. Per cui tu compri un libro a metà prezzo, poi glielo riporti, ti danno metà del metà prezzo e tu ne pigli un altro. Quindi Bali è, per l'avido lettore, è il posto perfetto, non c'è bisogno di portarsi nulla. Quanto a libri che mi hanno fatto viaggiare, sarò molto banale, ma intanto Salgari, che io preferisco dire Salgari come avevo imparato. Salgari, Le avventure dei corsari, Sandokan, aprivano veramente delle finestre meravigliose. Per i viaggi in Asia, io sono fra quelli che è andato in India per il Siddhartha, per aver letto il Siddhartha, non solo per quello, per avventura, perché era lontano, perché costava poco, tutte queste cose insieme, però il Siddhartha è stato una molla. E poi come grandi libri di viaggio, ma direi che per esempio Le vie dei canti di Chatwin, ma più ancora Che ci faccio qui, il libro che è un po' che ha composto alla fine della sua vita, quando stava facendo il viaggio più importante, quando stava ammalato di AIDS, che nessuno sapeva ancora che cos'era, nell'ospedale. Continuava a viaggiare, ci sono delle pagine bellissime di un incontro con un'infermiera italiana, lì si vede il vero scrittore di viaggio, perché è lì che sta morendo, ma è curioso di sapere qualche cosa di questa donna gentile, che palermitana, che viene a assisterlo nell'ospedale. Prima di lasciarci, e soprattutto vista l'esperienza del mio compagno di viaggio della vita balinese, chiedo l'ultimo consiglio per chi ci vuole andare. Un consiglio potrebbe essere questo: evitare i grandi alberghi e prendere quelle pensioncine che si chiamano losmen, in cui magari ci sono solo 4 stanze o 6 stanze. Perché intanto sono dignitosissime, oltre a essere più economiche. Fare base lì, e perché l'isola è piccola, fare base lì, affittarsi una moto, se si tiene di più alla propria incolumità, una macchinetta, e da lì andare a raggio nei diversi posti dell'isola. E poi un consiglio che sembra più complicato, ma non lo è: l'indonesiano, che è la lingua franca di tutto l'arcipelago, dalla Malesia fino alla Nuova Guinea, è una lingua che a livello basic è veramente facile, perché i verbi all'infinito, per cui con 50 parole uno fa finta di saper dire qualche cosa. Se uno fa questo sforzo, magari comprandosi un libretto prima di andare, fa tutto un altro viaggio e soprattutto le contattazioni vengono molto meglio. Dopo averci fatto fare un tuffo con l'immaginazione nelle meraviglie di Bali, Andrea vuole parlarmi di un paio di cose negative. Sono due cose. Prima di tutto, questo impatto fortissimo del consumismo ha fatto sì che moltissimi occidentali si siano voluti comprare della terra a Bali, e per cui Bali, che per esempio produceva un riso di qualità superiore, ora importa riso, perché all'occidentale piace avere la casa nelle risaie e si compra risaia e casa, anche se l'affitta per 20 anni, ci sono tutti dei trucchi per il... Poi pare che non solo i giapponesi investano moltissimo a Bali, ma anche la mafia. Mi è capitato di sentire delle conversazioni strane, e naturalmente questa avidità mette, non solo l'avidità occidentale, ma sollecita quella balinese, e i nipoti per esempio lottano con i nonni perché vendano la terra per potersi comprare la Toyota Kijang, che non c'entra neanche in quelle strade lì. Questa è una cosa. Quindi per esempio ci sono moltissime costruzioni rispetto, ogni anno è peggio. Poi l'altro problema invece è il governo indonesiano, che cerca un po' di islamizzare l'isola, perché Bali è induista, è un'isola proprio nell'arcipelago religioso, e con la transmigrasi, cioè portando a Bali moltissima manodopera islamica, che fra l'altro viene assunta molto volentieri dagli alberghi perché non c'hanno tutte le cerimonie religiose degli induisti. Saluto e ringrazio Andrea Bocconi del suo tempo passato insieme a noi a Bali con una frase presa dal suo libro Il giro del mondo in aspettativa. La danza sacra delle Dedari, in fondo, è la cerimonia giusta per un arrivederci. Mentre tornavo a Denpasar nella notte, sapevo che Bali mi aveva fatto un regalo che era un richiamo. Sarei tornato in un posto dove gli dèi danzano così. Ora Andrea Bocconi è in libreria con India formato famiglia e Viaggiare e non partire, Guanda Editore.